No, sono applausi assolutamente immeritati, come avete potuto constatare in questa settimana, insomma. Ma due parole solo, in attesa di salire poi a fare un piccolo spuntino. È meglio andare su, così stiamo un po' più tranquilli e più così, insieme. Ecco. Solo due parole proprio in qualche modo doverose, ecco, per ringraziare i due coordinatori di questa settimana, ma al di là di quello anche per provocare con tutti voi, insomma, ecco, una verifica sulla positività, insomma, ecco, che a noi sembra esserci molto in queste nostre settimane di incontro, settimane che hanno questa caratteristica, e noi speriamo che anche questa l'abbia al massimo grado, di essere soltanto l'inizio di un'amicizia, di una Freundschaft, ecco, che ci lega assieme e attraverso e mediante l'Istituto. Fin dall'inizio, non vi voglio annoiare, insomma, parlando sempre dell'Istituto, ma il nostro scopo è stato quello di creare una, noi chiamiamo una stazione di posta, una poststazione tra l'Italia e la Germania. Quindi il nostro non è assolutamente un obiettivo impossibile di sostituirci ai grandi centri di ricerca storica, ai grandi istituti, ecco, ma di costruire a Trento un posto in cui anche appunto il Concilio di Trento fu convocato proprio perché parte del Reich e nello stesso tempo terra italiana, questa è la caratteristica, diciamo, permanente, insomma, ecco, di Trento nei secoli della storia e anche del periodo che abbiamo esaminato, nonostante tutto, ecco. E quindi questa postazione serve per cambiare i cavalli e cambiare le idee anche. Die Pferde und die Ideen zu wechseln. Ecco, questo è lo scopo del nostro istituto, insomma, in termini generali. E io credo che questa settimana in qualche modo sia stata molto produttiva proprio anche da questo punto di vista. Non storia comparata, anche se comparazione è stata fatta, o diciamo nichts Neues, comparative soltanto. Geschichte, ecco, aber auch diese, questo scambio, insomma, ecco, sul piano storiografico delle idee. Dal punto più specifico poi della settimana, voi sapete che io non sono, appunto, l'ho detto fin dall'inizio, competente, quindi ho ascoltato dall'esterno le relazioni fatte e in parte anche la discussione. La mia impressione, e qui forse proprio anche che io parli da esterno, da profano, può essere di una certa utilità, è che l'idea che si trattasse fin da quando Ghisalberti ha fatto la proposta 2 anni fa di un buco nero nella storiografia, insomma, di un silenzio che doveva in qualche modo ormai e che poteva essere riempito, è stata confermata, mi pare, dagli interventi della settimana. In sostanza, io credo che questo nostro convegno sia servito per mettere sul tavolo di una revisione storiografica che su tanti altri piani ha già fatto dei cammini nelle discussioni degli ultimi 20 anni, anche questo problema, cioè il problema delle colonie come elemento non soltanto diciamo così esterno, ma della cultura dei nostri stati nazionali, insomma, cioè come elemento in qualche modo di identità del periodo più alto, diciamo così, o più importante per la determinazione degli stati nazionali, qual è stato quello tra 800 e 900, tra XIX e XX secolo. Ecco, io ho la presunzione quindi che questa nostra settimana possa servire proprio come possiamo fare noi storici, no? Quindi non con le profezie e non con i modelli teorici dei sociologi o dei politologi, per portare alla luce appunto uno degli elementi, ecco, che credo, se l'Europa non è solo un flatus vocis e se appunto sarà possibile portare avanti questo processo di unificazione, con uno degli elementi che hanno caratterizzato la nostra identità e che possono anche in qualche modo contribuire a quell'eterno problema, insomma, del rapporto tra l'Europa, in particolare il mondo mediterraneo e insomma, in qualche modo una funzione più complessa, ecco, in cui io credo fermamente, e qui parlo appunto non tanto come storico quanto come uomo civile, diciamo così, ecco, io credo che appunto con tutte le debolezze, le fratture, gli scompensi che ci sono stati, ecco, la storia dell'Italia e della Germania proprio nelle sue relazioni, in questa continua e tormentata Verhältnis, ecco, possa e debba costituire appunto un elemento importante per la coscienza che ci dovrà guidare nei prossimi anni. Ma finisco qua questo discorso strano e così generale, insomma, ecco, grazie ancora a tutti i partecipanti e speriamo di vederci anche individualmente nei prossimi anni, insomma, ecco. Questa è la casa comune, vorremmo dire, per tutti quelli che hanno frequentato le nostre settimane. Ecco, noi dal 73 abbiamo avuto borsisti che poi sono diventati illustri cattedratici, e questo è l'augurio che faccio ai più giovani di voi. Grazie. Grazie Paolo, veramente grazie.